Ah, ma data, non mi dica che non venghi perché te m'hanno appiarato Gorilla con la pistola, Ho sbagliato festa, ho sbagliato villa. Infatti mi coincideva tutto, il cancello, il chiosco, il vialetto, solo che quando sono entrato mi ha preso un colpo perché ho visto 200 teste bianche, tutti vecchi, quei rughe in faccia, mi sono detto, ammazza come ci siamo ridotti. Io, molto fine. Sì, veramente di classe. Venerdì 24 luglio, Nord-Sud-Ovest Trash, oltre le frontiere. Sali a bordo della vasca navale e salpa con l'internazionale Trash Ribelle, la Buttamola in Caciara e la Roma Trash All Stars. Venerdì 24 luglio al Barricadero del Cinodromo, a sostegno di Radio Onda Rossa. Per amor del trash, viva la musica pirata!